Salva Danaio di Deborah Rosciani. Una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio, l'ultima puntata della settimana. Vi ricordo che saremo in diretta anche lunedì e martedì, sono due giornate di festa, ma noi ci saremo perché la borsa è aperta e quindi avrete il consueto aggiornamento dai mercati finanziari e oltre che naturalmente i temi di approfondimento che scegliamo come sempre nel nostro contenitore dedicato fondamentalmente alla finanza familiare. Allora, oggi di che cosa parliamo? Oggi abbiamo un nuovo rapporto sul credito alle famiglie, peraltro lo leghiamo anche a quanto ha indicato questa mattina la fotografia del nostro paese scattata come sempre, come ogni anno, dal Censis. Si parla di una resistenza stressata delle famiglie italiane, di nuove abitudini su cui la crisi le ha instradate, questo indica questo rapporto dedicato alla situazione sociale del paese. Dall'indagine, nella parte che riguarda appunto l'ambito familiare, emerge che il 28,5% delle famiglie ha avuto nell'ultimo anno difficoltà a coprire le spese mensili con il proprio reddito. E allora a quali fonti alternative queste famiglie in difficoltà hanno fatto ricorso? Il 41% ha messo mano ai risparmi accumulati nel passato, in oltre un quarto dei casi uno o più membri ha svolto lavoretti saltuari per integrare il reddito, il 22,2% ha utilizzato la carta di credito per inviare al mese successivi i pagamenti, c'è un 8,9% che ha fatto ricorso a prestiti di istituti finanziari, oltre che anche una fetta di persone che si è fatta prestare soldi da parenti o amici per arrivare appunto a far quadrare il bilancio mensile. Allora, perché siamo partiti da questa fotografia scattata dal Censis? Perché la vogliamo mettere insieme all'altra fotografia che è stata presentata invece ieri a Milano, il nuovo rapporto sul credito al dettaglio. Anche in questa è un'indagine periodica che viene elaborata da tre grandi istituzioni, Promete, Iacrif e Assofine, che adesso vi ricorderò anche per chi non lo sapesse che cosa fanno, e abbiamo appreso anche da questo nuovo rapporto molte tendenze interessanti per quello che riguarda i prestiti che le famiglie italiane chiedono, sia prestiti di piccolo taglio ma anche prestiti che riguardano l'acquisto della casa, quindi i mutui. C'è una stretta molto importante, le nuove erogazioni nel primo semestre di quest'anno hanno registrato un calo dell'11,2% dopo le crescite a due cifre a cui eravamo abituati negli ultimi anni. Adesso invece la crisi, che ha diverse facce, è una medaglia che ha molte facce, si sta ripercuotendo in questo settore in maniera molto decisa. Perché? Perché le famiglie hanno cambiato la propria condizione economica, molte sono in difficoltà, perché c'è stata la stretta del credito e le banche sono diventate più rigide nel erogare appunto finanziamenti, e tutto questo si traduce anche in uno stato di salute di questo settore che comincia ad essere un po' più complesso, diciamo, non dico in difficoltà, ma sicuramente un andamento molto diverso rispetto a quello a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni. Allora, alla luce di tutto questo, commenteremo questa tendenza, cercheremo di capire quali sono ancora i settori che navigano in acque positive, quindi hanno il segno più, e cosa potrà succedere anche nel prossimo anno, perché appunto, come sapete bene, il 2010 è indicato come un anno di nuova e ancora forse maggiore difficoltà per molte famiglie, per le piccole imprese, per le aziende e quant'altro. Con chi interagiremo questa mattina? Daniela Bastianelli, analista di CRIF. Buongiorno Bastianelli, benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. Non dico tutta la sua carica complessa e completa perché è molto lunga, allora così per aiutare i nostri ascoltatori a comprendere la vostra attività, è un analista appunto di CRIF, che è il più grande gruppo italiano di gestione delle informazioni creditizie, giusto? Giusto, benissimo. Certamente. Chiara Fornasari, partner di Prometeia, questa invece è una delle maggiori società italiane di ricerca economica e finanziaria. Dottoressa Fornasari, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. E più tardi ci collegheremo con Marco Siracusano, sentiremo anche non solo la ricerca ma anche l'industria di settore, cosa dice, cosa ha in mente di preparare per sostenere le famiglie in questa fase di difficoltà. Ci collegheremo più tardi con Marco Siracusano, responsabile famiglie della direzione marketing privati di Intesa San Paolo. Naturalmente microfoni aperti anche a voi per le vostre considerazioni, 800 24 00 24, il tema del credito continuate a chiederlo in banca? Vi dicono no perché? Oppure lo avete ottenuto ma con un po' più di difficoltà rispetto magari ad altre circostanze del passato? Il mutuo state andando a chiedere in banca? Che tipo di garanzie vi chiedono? Quindi questa stretta del credito che si traduce anche tra le famiglie, insomma, come la state vivendo? Raccontateci le vostre esperienze, quello che osservate intorno a noi. Saremo ben lieti appunto di commentare tutto questo con i nostri interlocutori, per il momento interlocutrici della prima parte di Salva Danaio. Dunque il numero verde ve l'ho ricordato, ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Un'occhiata alla borsa, oggi mercato europeo, così come poi lo sarà quello americano nel pomeriggio, in attesa del dato, e anche qui tocchiamo questo termine, sulla disoccupazione statunitense, verrà pubblicato come sempre alle ore 14:30 e abbiamo peraltro delle attese per un tasso di disoccupazione stabile al 10,2% in America, con la creazione di 130.000 nuovi posti di lavoro. Vedremo se è un dato inferiore o meno alle attese, questo è quanto stima il consensus secondo quanto ha raccolto l'agenzia RadioCore, ma l'Europa attende in maniera negativa questo dato. Abbiamo cali di oltre mezzo punto fra gli indici del vecchio continente, meno 0,7% a Piazza Affari. Un solo titolo positivo in questo momento è Geox, guadagna lo 0,6%, poi segno meno sugli altri 39 titoli del principale paniere di Piazza Affari. I cali più dirompenti: Pirelli meno 2,51, Campari meno 2,42, Mediobanca meno 2, Impregilo meno 2, meno 2 anche per Fondiaria Prismian, meno 1,8 per Mediaset, Exor in ribasso di un punto e mezzo, il Banco Popolare, Luxottica e Mediolanum, petrolio a $76 al barile. Questi sono i temi della giornata, rapporto euro-dollaro a 1,50 e 60. Adesso andiamo al tema di oggi. Eccovi, riassumiamo nella nostra scheda quanto ha indicato ieri il 27esimo rapporto sul credito al dettaglio presentato da Prometei a CRIF e Assofin. Dopo aver schivato gli effetti più dirompenti della crisi finanziaria, anche il comparto del credito al consumo si è dovuto arrendere. E la frenata è arrivata. Secondo l'ultimo osservatorio Assofin, CRIF Prometeia, nel primo semestre dell'anno le erogazioni rispetto allo stesso periodo del 2008 sono calate dell'11% per il credito al consumo e del 12,5% per i mutui immobiliari. La maglia nera spetta ai finanziamenti per l'acquisto di autoveicoli, meno 20,3%, e ai prestiti personali che per la prima volta hanno chiuso con il segno meno, in calo del 13%. Rallenta anche il mercato delle carte revolving, che pur mantenendosi in territorio positivo, è cresciuto solamente dello 0,2%. Prosegue invece la crescita della cessione del quinto dello stipendio, che alla fine di settembre è risultata pari all'8%. Del resto, quest'ultima pratica è la nuova strada battuta soprattutto dagli istituti di credito che erogano più facilmente il prestito perché hanno come garanzia un'entrata fissa, lo stipendio del richiedente. 800 24 0024 è il numero verde per i vostri interventi. Allora cominciamo la nostra chiacchierata, per adesso per pochi minuti perché poi devo già andare in pausa. Fra 4 minuti circa, Chiara Fornasari, partner di Prometeia. Abbiamo parlato prima del Censis, il rapporto sullo stato sociale del paese, lo definiamo sempre fotografia. La vostra fotografia invece, quella presentata ieri a Milano, che cosa indica? Un mercato del credito sempre più debole per i fattori che abbiamo già indicato in apertura, ma qual è secondo lei, visto che anche questa è un'altra parola che utilizziamo molto in questo momento, il fattore più dirompente, la difficoltà delle famiglie italiane, molte delle quali all'interno c'è un membro che ha perso il lavoro, quindi non ha più le condizioni oggettive per fare una richiesta ad una banca, oppure la banca che è diventata più rigida? Entrambe le cose, ovviamente. Lo stato di salute delle famiglie è certamente minato da due fattori. Uno congiunturale contingente, che è il cedimento dell'occupazione, che quest'anno è intorno al 2,5% ed è il primo anno dopo tanti così rilevante in termini di caduta dell'occupazione. Concordo comunque anche con l'analisi del Censis, nel senso che i meccanismi, come dire, di stabilizzazione del welfare italiano hanno aiutato, lì sono state concentrate risorse fino ad ora, sull'occupazione. L'occupazione tradizionale ha ceduto molto di più quella meno tradizionale, quindi quella che già era debole, no? E quindi il dato è importante, preoccupante, perché emargina già chi era un po' più emarginato. Però abbiamo anche un dato che viene da lontano e che è stato commentato ancora negli anni, ogni tanto ci se lo dimentica, e cioè il fatto che comunque i redditi delle famiglie italiane, soprattutto da lavoro dipendente, non riescono a recuperare in termini reali oramai da molti anni. Sono al palo, come si dice. Anzi. Esattamente, valga per tutti un dato, mentre i consumi pro capite delle famiglie italiane nell'aggregato nel 2000 erano come livello proprio i secondi in Europa dopo la Gran Bretagna, oggi siamo quasi fra gli ultimi posti tra i grandi paesi, se ci mettiamo Francia, Germania e Spagna, no? Quindi abbiamo proprio perduto potere d'acquisto, è l'effetto dell'euro, insomma ne discuteremo a lungo. Hanno invece recuperato un po' di più i redditi da lavoro autonomo, quindi c'è un cedimento che viene da lontano. Non dimentichiamo che i consumi delle famiglie italiane hanno avuto anche una riduzione di circa l'1% nel 2008, quindi è un dato. Il ruolo del credito al consumo: noi siamo il paese europeo con le famiglie meno indebitate, ma meno indebitate anche perché l'indebitamento coinvolge il 15% circa delle famiglie italiane, quindi è basso proprio rispetto all'estero il numero delle famiglie che usa il credito. Il credito al consumo soprattutto, ovviamente è diverso il discorso per i mutui, no? È più largo la platea di famiglie. Il credito al consumo è utilizzato in maniera sobria, noi diciamo, nelle nostre analisi dalle famiglie italiane, cioè non è nella maggioranza ovviamente utilizzato per questioni di tipo ordinario, cioè quindi per chiudere il mese, no? Fino ad ora. È stato utilizzato per questioni importanti, per ristrutturare casa, progetti di famiglia piuttosto che acquisti una tantu, no? Ed era così classicamente il finalizzato, ma anche il ruolo del personale, no? Quindi questo è il quadro con cui ci dobbiamo confrontare. Ciononostante, nelle nostre indagini più recenti abbiamo individuato un'area di sofferenza che ovviamente sta nelle aree a più basso reddito. Non è grandissima ovviamente perché è il 6% delle famiglie che usano il credito, però si incomincia a vedere, quindi concordiamo col fatto che dati congiunturali più dati strutturali certamente stanno incidendo nella difficoltà allora, a garantire. Dottoressa Fornasari, adesso ci dobbiamo fermare, abbiamo già una prima pausa, poi con Daniela Bastianelli di CRIF proprio sul tema dell'area di sofferenza mi vorrei soffermare, perché qua questo mercato che a questo punto sta mostrando i suoi lati fragili si sta ripercuotendo anche sulla qualità del credito. Naturalmente il tasso delle famiglie che vanno in default, adesso è un bruttissimo termine ma questo dobbiamo utilizzare e ne abbiamo parlato tante volte negli ultimi mesi, cioè le famiglie che non riescono poi a rispettare i propri impegni finanziari, stanno crescendo. Abbiamo ancora delle percentuali che io così guardandole posso ritenere sicuramente contenute, eppure per un'industria di settore che è stata sempre molto accorta intorno all'utilizzo appunto degli strumenti di credito al consumo comincia ad essere invece una percentuale che qualcuno definisce preoccupante. Le associazioni dei consumatori sono molto molto attente intorno a questo e qualcuno parla di tassi di indebitamento in realtà per una popolazione che non si era mai indebitata tanto, che cominciano ad essere eccessivi. Tra salvadanaio e soldi dintorni questa settimana ci siamo occupati tanto dell'indebitamento delle famiglie. Ieri per esempio a soldi dintorni abbiamo presentato il risultato dell'attività dell'osservatorio regionale del costo sul credito di Caritas Italiana Fondazione Culturale Responsabilità Etica di Banca Etica. Si prevede un 2010 difficile per le famiglie in procinto di acquistare casa. Poi ce ne siamo occupati in un'altra puntata parlando dei tassi sui prestiti al consumo che sarebbero i più alti in Italia come oneri, come appunto tassi praticati nel nostro paese. Oggi ci siamo ritornati sull'argomento alla luce di quanto indica il rapporto Censis sulla situazione sociale del paese, ma soprattutto alla luce di quanto indica il rapporto sul credito al dettaglio presentato ieri a Milano. Il credito al consumo è in discesa, nel primo semestre del 2009 le nuove erogazioni sono in calo dell'11%, c'è un calo molto netto per i prestiti finalizzati, cominciano a scendere anche i prestiti personali che invece avevano avuto un andamento diverso fino a qualche tempo fa, continua a crescere la cessione del quinto dello stipendio. Allora, Daniela Bastianelli di CRIF, nel gruppo italiano che si occupa di gestione delle informazioni creditizie, parlavamo prima del tasso di default, no? Delle famiglie, cioè quelle famiglie che non pagano un tot di rate e pertanto si trovano ovviamente in difficoltà con l'ente che ha prestato loro del denaro sotto le forme che abbiamo già indicato prima. Questo 3,1% rilevato a settembre è un dato che indica una soglia di allarme o una situazione ancora tutto sommato sotto controllo in Italia? Breaking news. Una buona giornata alla redazione, aggiornamenti da Torino dove è in corso la deposizione del pentito Gaspare Spatuzza. Ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Raffaella Calandra. Raffaella. ci hanno messo il paese in mano, tutto quello che volevamo avere, quello che cercavamo l'abbiamo ottenuto per la serietà delle persone che hanno portato avanti questa storia. Gaspare Spatuzza ha fatto i nomi di Silvio Berlusconi, quello di Canale 5 dice, e di Marcello Dell'Utri, raccontando un incontro a Roma nel bar di Via Veneto con il capomandamento di Brancaccio Giuseppe Graviano, prima degli attentati a Roma all'Olimpico e contro i carabinieri. Di questo ora sta parlando, di questo ora vi racconteremo poi nella prossima diretta. Grazie Raffaella Calandra, ci risentiamo nel giornale radio delle 13. Daniela Bastianelli, si è spaventata? No. Ogni tanto abbiamo questi blitz della redazione, ma dobbiamo giustamente farli, perché poi da Torino oggi stanno arrivando delle notizie piuttosto interessanti. Allora, non le ribadisco la domanda, perché credo che gli ascoltatori la ricordino. Chiaro, sì. Certo. Sicuramente non possiamo negare che c'è stato un peggioramento della qualità del credito. D'altra parte ce lo aspettavamo anche, nel senso che le condizioni negative, voglio dire, dell'economia nel suo complesso, e come ci diceva poc'anzi la dottoressa Fornasari, il cedimento occupazionale hanno inciso negativamente sulla qualità del credito. Quindi diciamo che questo è avvenuto in modo diffuso sulle diverse categorie di soggetti che fanno ricorso quindi al credito, siano esse imprese e quindi anche famiglie. E quindi su queste ultime, diciamo, si sono manifestati maggiori problemi negli ultimi periodi, proprio di mantenimento dell'equilibrio del bilancio familiare. Quindi l'abbiamo visto, un aumento della disoccupazione, una maggiore precarietà, e quindi quanto è stato elevato anche il ricorso alla cassa integrazione, e questo ha messo in maggiore difficoltà le famiglie nel pagamento delle rate degli impegni finanziari che erano stati assunti. Dottoressa Bastianelli, tecnicamente quando si può parlare di tasso di default per una famiglia? Allora, il tasso di default noi lo definiamo come i contratti che sono entrati in sofferenza o mostrano 6 rate scadute e non pagate nell'ultimo anno. Quindi questa è la definizione tecnica del tasso di default. Quindi in sostanza che cosa significa? Che più famiglie, diciamo, hanno avuto problemi di pagamento delle rate, e problemi anche, diciamo, piuttosto consistenti, no? Vediamo un esempio per tutti. Per il credito al consumo, da marzo 2009 a settembre 2009 questo tasso è cresciuto di 0,5 punti percentuali. Quindi diciamo che la qualità del credito è risultata in peggioramento, e soprattutto questo per i prestiti personali rispetto ai finalizzati. Anche i mutui però hanno avuto dalla loro diciamo un aumento della rischiosità. Su questo segmento abbiamo visto anche degli interventi che sono stati comunque degli interventi diciamo utili, come quelli di politica monetaria, quindi più generali fatti dalla BCE nel progressivo abbassamento dei tassi di policy, e anche quelli di politica economica. Abbiamo visto i decreti di portabilità e rinegoziazioni dei mutui che hanno permesso alle famiglie di rivedere i propri piani finanziari, sia in termini di importo delle rate da pagare che in termini di scadenze, e questo però è servito solo in parte a mitigare, diciamo, la rischiosità di questo segmento. Anche perché le proposte delle banche in questi termini ovviamente sono di sollievo solo temporaneo, la situazione di difficoltà economica per molte famiglie è destinata purtroppo a durare un po' di più nel tempo, speriamo di no naturalmente, il meno possibile, ma diciamo che mediamente non riescono a combaciare, no, le due cose. Che il mercato del lavoro, diciamo, la fa un po' da padrone. Se l'occupazione non riprende, diciamo, le famiglie diciamo che trovano sostegno nella loro economia domestica da questo spaccato dell'economia, diventa più difficile, no? Quindi è uno dei principali driver probabilmente di mitigazione del rischio. Che cosa possiamo dire? Che sicuramente questa crisi ci ha fatto un po' riflettere, no? Su quelli che sono stati anche diciamo i presupposti di una sostenibilità del credito. Quindi da un lato gli operatori, dall'altro anche le famiglie, probabilmente stanno anche ripensando più consapevolmente, no? Alla possibilità di sostenere determinate rate. Noi che cosa vediamo dal nostro, diciamo, osservatorio privilegiato? Che i mutui, ad esempio, più rischiosi, per fare, diciamo, un, diciamo una semplificazione, sono quelli a importi più elevati, anche a durate e a scadenze più lunghe. Questo che cosa significa? Che probabilmente c'è un problema effettivo di sostenibilità della rata, quindi quanto la famiglia è in grado di reggere rate importanti. Quindi... No, esatto, poi non ci dimentichiamo che abbiamo visto anche una crisi talmente importante un anno fa che ha fatto schizzare i tassi di interesse. Allora, se una famiglia anche adesso fosse nelle condizioni di indebitarsi con i tassi che ci sono in questo momento, che sono a livelli assolutamente straordinariamente bassi, attenzione, non facciamo che poi questa situazione di favore adesso si trasformi in un'altra situazione di emergenza fra un anno, perché i tassi ricominceranno a crescere, per cui ben venga tutta l'indicazione della dottoressa Bastianelli anche sulla cautela che bisogna adottare quando si va in banca a chiedere un prestito. Tante volte se la banca dice no, non è che lo faccia proprio per farci un dispetto. Adesso non è che voglio fare l'avvocato del diavolo, perché lo sapete quanto mi piace bastonarle, però qualche volta cerchiamo anche di così valutare nel lungo periodo questa attenzione, chiamiamola così, non so se è un'attenzione, però è comunque un atteggiamento che va apprezzato qualche volta per le difficoltà che abbiamo già visto. Vi faccio sentire un paio di ascoltatori, se no non li faccio sentire mai, poi tra poco ci collegheremo anche con Marco Siracusano di Intesa San Paolo. Allora, Paolo da Milano, buongiorno, mi scusi per averla fatta aspettare. Abbiamo così completato tutto il quadro su questo rapporto, almeno su tanti aspetti. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo portare una testimonianza, a mio malgrado, a favore delle banche. Perché io personalmente, cioè, qualsiasi cifra vado a chiedere in banca me la danno, ma non perché io abbia un conto stratosferico, un conto normalissimo, solamente ovviamente perché io tutte le volte che ho chiesto prestiti non ho mai saltato una rata. Ma lei ha un lavoro certo, Paolo? No, per esempio, sono un lavoratore autonomo e quindi posso guadagnare un anno tot e l'anno prossimo non guadagnare niente. Ma probabilmente, Paolo, anche a merito del CRIF, che ha fatto di lei una profilatura comunque, ecco, di buon pagatore. Beh, sicuramente, voglio dire, quello comunque è il principale parametro che un'istituzione finanziaria chiede, no? Voleva fare qualche altra osservazione, no, Paolo? Sì. No, difatti, volevo dire che la persona con cui trattavo la banca è andata a lavorare in un'altra banca, addirittura mi ha chiamato e mi fa: se vuoi c'è un qua 75.000 euro quando vuoi. A me non mi servono, però per dire, questa è la mia testimonianza. È chiaro che se poi uno non paga le rate è più difficile. Certamente. Però nel mio caso, non essendo un Berlusconi, cioè se vado in banca, qualsiasi cifra che chiedo me la danno. Paolo, la ringrazio. Sentiamo Renato da Roma, che invece fa tutt'altro lavoro. Buongiorno. Buongiorno, salve, grazie di poter intervenire. Grazie a lei. No, volevo portare anche, perché secondo me in questo tipo di discorso poi manca un elemento importante, cioè la categoria del recupero crediti. Le invitiamo spesso, io le conosco molto bene, l'Unirec, tutte le... Marco Recchi. perché in questo momento la cinghia di trasmissione che porta le istanze delle persone in difficoltà e le porta in collegamento con le società finanziarie, che devo dire qualche volta sì, qualche volta no, però insomma bene o male, soprattutto sulle posizioni di sofferenza, poi cercano di trovare una soluzione, e siamo noi. Quindi è evidente che per gestire in maniera efficiente i problemi di queste persone, perché poi parliamo di persone, uno poi vede i numeri, le sofferenze, il credito degradato, però in realtà dietro questi numeri ci sono persone fisiche che hanno, spesso sono brave persone, attenzione. Non spesso, io credo che lo siano all'80%, magari c'è il furbo che dice insomma salto una rata, tanto non mi dice niente, ma c'è poi invece magari il padre di famiglia che è, come dire, si trova in una situazione drammatica, che vorrebbe impegnare e rispettare tutti i suoi impegni e non può farlo perché deve pagare la scuola per il bambino piuttosto che un'altra cosa e rimane indietro. Oltretutto noi parliamo di rate di prestiti e lei lo sa benissimo, Renato, che molto spesso ciò che rimane indietro è la bolletta della luce ed altro, e voi dovete anche gestire quelle questioni, noi giusto? Gestiamo anche le utenze, vabbè, sul discorso delle utenze, però devo dire la verità, si è aperto tutto uno scenario nuovo col discorso della liberalizzazione, però adesso poi magari andiamo fuori tema. Sì, no, però insomma era tanto per completare il quadro sulle difficoltà in cui una famiglia si può trovare in maniera improvvisa e non è certo il furbo che non vuol pagare una rata perché dice tanto pensa di farla franca. Allora, avevo promesso a Renato da Roma di farlo continuare. Renato, in realtà mi mancano pochissimi minuti di tempo, però io ho capito insomma la sua osservazione, adesso la ritrasmetto magari all'ultimo ospite di oggi che ci ha raggiunto, che è Marco Siracusano, direzione marketing privati di Intesa San Paolo, responsabile per l'ambito famiglie. Dottor Siracusano, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Spenderò con lei gli ultimi minuti della nostra trasmissione. Io ho già affrontato, come dire, tutto quanto, almeno gran parte di quanto indica il rapporto Assofin CRIF Prometei presentato ieri a Milano con Chiara Fornasari di Prometei e con Daniela Bastianelli di CRIF, per tutto ciò che sono, come dire, le tendenze, per tutto ciò che è il quadro di difficoltà per le famiglie, quindi il cosiddetto tasso di default, lo abbiamo analizzato in lungo e in largo. Adesso ci interesserebbe anche capire l'industria di settore cosa intende fare per affrontare questo momento che è sempre più delicato ed è testimoniato stamattina anche dalla fotografia scattata dal Censis sulla situazione sociale del paese. Di prestiti le imprese piccole e grandi e anche le famiglie hanno bisogno. La stretta creditizia c'è stata, molte famiglie hanno cambiato la loro situazione economica perché all'interno di molti nuclei familiari qualcuno ha perso il posto di lavoro, ce lo testimoniano tanti ascoltatori che ci sta scrivendo. Io mi chiedo le banche come intendono affrontare tutto questo e alla luce anche delle tante iniziative generali che sono state prese, la moratoria non tanto sui prestiti appunto per le imprese quanto quella che adesso per esempio sta partendo sui mutui per le famiglie, tante iniziative individuali che ogni banca ha preso per affrontare i problemi della propria clientela, è necessario fare qualcosa di più, dottor Siracusano, come intendete affrontare i prossimi mesi? Ma io direi semplicemente due cose. Primo, Intesa San Paolo ovviamente sta aderendo, aderisce e supporterà tutte le iniziative di sistema, ma ovviamente come grande banca del paese Intesa San Paolo sul mondo del credito alle famiglie comunque continuerà a fare la sua parte, che ad esempio se noi guardiamo le tre macro ambiti di operatività, mutui, prestiti personali e anche la cessione del quinto, noi abbiamo avuto un 2009 dove abbiamo fatto il possibile per mantenere elevati livelli di erogazione e continueremo anche nel mondo per quanto riguarda il 2010. Aggiungerei soltanto una cosa, Intesa San Paolo da circa un anno ha introdotto nel mondo dell'offerta di finanziamenti una attività, un ambito di operatività relativamente al check-up finanziario. In sintesi vuol dire andare a fare un percorso di educazione finanziaria non solo sui clienti ma anche sulla rete di vendita per fare in modo che ogni richiesta di finanziamento poi vada a esaminare nel dettaglio quelli che sono i flussi di reddito del cliente, i bisogni cosiddetti incomprimibili e i flussi residui che possono consentire l'accesso ad una rata di finanziamento. Tra l'altro volevo anche ricordare per esempio che Assofin ha monitorata, che è anche questo uno strumento, come dire, chiamiamolo così, informatico, attraverso il quale inserendo i dati sulle proprie caratteristiche e condizioni economiche si può individuare se si ha la capacità di rispettare un impegno finanziario qualora lo si intendesse prendere. Che utilizzo è stato fatto dai vostri clienti di questo check-up finanziario, dottore Siracusano? L'utilizzo, guarda, è stato molto elevato. Quello che noi oggi vorremmo fare è non considerarlo, se mi passa il termine, una sorta di prodotto, ma bensì fare diventare l'ingresso nell'operatività di finanziamento per tutti i clienti, non solo per i nuovi clienti che accedono a delle richieste di nuovi finanziamenti per noi, ma anche, mi passa il termine, fare una sorta di check-up unico ai già clienti che potenzialmente o prospetticamente potranno in futuro effettuare delle richieste di finanziamento. Ma questo secondo lei è la strada verso la quale si andrà tutto il sistema bancario, come dire, sposterà anche la propria operatività in questa maniera? Cioè qua c'è bisogno di conoscere sempre meglio i propri clienti perché stanno cambiando il proprio profilo? Quindi non più una profilatura attraverso un database freddo, ma forse con un check-up si cerca di fare in modo che il direttore chiacchieri un po' di più con il nucleo familiare. Esatto, quello, se mi posso esprimere in questo modo, quello che noi vorremmo fare aumentando la cultura finanziaria sia interna sia esterna e fare in modo che ci sia maggiore simmetria tra quella che è l'attività corrente, il DNA di alcune banche in termini di risparmio e investimenti e considerare il credito alle famiglie come un qualcosa che necessita in maniera simmetrica anche di consulenza, di maggior consapevolezza e di sostenibilità della rata. Ricordo al riguardo che fare credito sostenibile è un'attività di Intesa San Paolo, come penso di altre banche, ma soprattutto è nell'interesse del cliente, se mi consente, anche nell'interesse della banca, perché riesce a prevenire situazioni di difficoltà che ovviamente si riflettono sul bilancio familiare del cliente, ma anche sui bilanci delle banche. La prevenzione della situazione di difficoltà, perché in difficoltà ci si trova già, dottore Siracusano, che cosa si fa però? Il check-up finanziario vale anche per queste persone, per queste famiglie? Il check-up finanziario oggi noi l'abbiamo iniziato, mi passi il termine, tra primi, e ovviamente è un progetto che non è finito, come le dicevo, cercare di creare davvero maggiore cultura e simmetria tra risparmio e investimenti vuol dire arrivare anche in una logica predittiva, cioè riuscire a intercettare prima le difficoltà del cliente in una logica di poi di riuscirlo a traguardare in un atterraggio più morbido delle sue difficoltà. E volevo leggere un messaggio di un'ascoltatrice che non c'entra niente con la vostra attività attività, ma con quella di un'altra grande società che opera nel credito al consumo nel nostro paese. Io non la nomino, è la più grande e quindi sicuramente capiranno di chi sto parlando. Mi ha comunicato verbalmente che non mi concede almeno per un anno finanziamenti perché ho rimborsato anticipatamente due finanziamenti. Ma come funziona, dice il buon pagatore, ci chiede Fiorella, viene bastonato? Funziona così anche da voi, dottor Siracusano? Assolutamente no. Se si paga in anticipo, insomma, credo che si voglia tenere ben stretto un cliente. Assolutamente no, guardi, io questo vi posso dire, se c'è un'area di miglioramento, questa ce la mettiamo tutte, quella davvero di fare in modo che l'offerta di credito alle famiglie entri a pieno titolo in tutte le attività a 360 gradi di presidio della clientela della nostra consulenza. Io chiudo con lei, Siracusano, perché Bastianelle Fornasari l'ho sentita nella prima parte. Il 2010 non si prevede come, non si prefigura come un anno molto, molto sereno per il nostro paese. Credo che questo le vostre proiezioni lo indicano già, come lo indicano le proiezioni di tutti i più autorevoli istituti economici e quant'altro. Per il settore del credito al consumo, insomma, che cosa possiamo indicare, almeno secondo il vostro osservatorio, insomma, quale messaggio rivolgiamo alle famiglie in ascolto? Vorrei dire solo velocissimamente ovviamente due cose. La prima è che sono moderatamente ottimista. La seconda, vorrei uscire un attimo dalla logica un po' grigia, un po' patologica. Lo deve fare in 20 secondi perché sto chiudendo, allora, la ringrazio. Consideriamo il credito alle famiglie una grande risorsa, perché consente davvero di supportare e di far bilanciare l'attività della gestione familiare. Quindi consideriamolo anche in misura di supporto e di attività positiva che le banche faranno. Benissimo, grazie a Marco Siracusano, Chiara Fornasari, Daniela Bastianelli per essere stati con noi. Devo chiudere in fretta, Salvadanaio torna lunedì. Magari torneremo ancora a parlare di prestiti, lo sapete, è un nostro grande cavallo di battaglia insieme ai mutui, e continueremo ancora a monitorare come sta andando la vostra domanda ma anche l'offerta, sperando appunto di darvi gli strumenti utili per poter dialogare sempre nella maniera migliore con la banca. A lunedì.